Buonasera a tutti, inizia Zardins Magnetics, programma che va in onda ogni giovedì in diretta radiofonica qui dagli studi di Radio Onde Furlane dalle ore 20 alle 21:30. Ma ora andiamo con quella che è la sigla di questa trasmissione, che è Retribution dei Behind Enemy Lines. Lorenzo vive. Stato, sì, anche lo Stato Vaticano e padroni assassini. Iniziamo così il Zardins Magnetics di oggi 27 gennaio, ricordando Lorenzo, morto qualche giorno fa durante un tirocinio di formazione. E perché anche lo Stato del Vaticano assassino? Perché Lorenzo frequentava un corso di formazione professionale all'Istituto Salesiano Bearzi. Ricordiamo che nel 2018 un altro studente, durante un percorso analogo a quello di Lorenzo, ha perso una mano in un infortunio sul lavoro. Infatti ci sono continuamente infortuni ai danni dei ragazzi che seguono questi percorsi di formazione professionale o che seguono l'alternanza scuola-lavoro, anche se per fortuna non di questa estrema gravità. Come ci sono continuamente infortuni che subiscono i lavoratori che spesso e volentieri si trovano a seguire loro in fabbrica questi ragazzi, altro che tutor. Allora le morti sul lavoro non sono una fatalità. Sembra che siano una fatalità, sembra trasparire questa ipotesi dai media. Media che praticamente suggeriscono preghiere e religiosi silenzi di fronte alla disgrazia. Allora, le morti sul lavoro non sono una disgrazia, hanno responsabilità ben precise, lo Stato capitalista e i padroni. Una cosa veramente che colpisce come una coltellata è sapere che in Friuli non una fabbrica si è fermata per protestare contro questa ennesima morte. Siamo di fronte a realtà lavorative dove molte attività sono esternalizzate, perciò gli operai nemmeno sanno individuare più chi è il padrone responsabile. C'è una catena di comando fatta di padroni e una disaggregazione dei lavoratori e una biura della coscienza di classe spaventosa. Lasciamo perdere la Trimurti perché nemmeno la nominiamo. In ogni caso, gli studenti non hanno accettato di passivamente questa situazione. Ricordiamo che domenica 23 gennaio a Roma c'è stata una manifestazione importante organizzata dal movimento studentesco che si chiama LUPA e che racchiude al suo interno diversi gruppi di sinistra, diciamo. E si è trattato di un presidio che si è svolto al Pantheon. E poi però appunto gli studenti hanno deciso di fare un corteo per raggiungere il MIUR, il Ministero dell'Istruzione e dell'Università e della Ricerca Scientifica, e siccome questo corteo non era autorizzato, praticamente c'è stata una carica piuttosto violenta da parte della Celere. Ci sono stati anche degli studenti feriti, anche se poi appunto i giornali hanno minimizzato il fatto, però ci sono stati parecchi studenti feriti, ma nonostante questo il corteo è stato fatto, non hanno mollato e sono riusciti ad arrivare fino in Viale Trastevere, appunto davanti al Ministero. Lo slogan di questa manifestazione romana era «Sappiamo chi è stato, Lorenzo vive». Allora anche a Udine ci sarà una manifestazione domani mattina alle 9, organizzata dal Fronte della Gioventù Comunista per ricordare Lorenzo Parelli, morto mentre faceva un tirocinio a Lauzacco. Ci dicono gli studenti che organizzano la manifestazione: quanto accaduto a Lorenzo è la logica conseguenza quando si mandano gli studenti a lavorare nello stesso contesto che produce 4 morti sul lavoro al giorno. Allora non si tratta, parlando dell'alternanza scuola-lavoro e parlando anche di questi percorsi di formazione scuola-lavoro, non si tratta appunto di lavoro ma di sfruttamento. Questi dispositivi classisti, chiamati adesso con un acronimo che non mi ricordo ma che comunque non cambia la sostanza, sono fatti infatti appositamente per abituare i giovanissimi a fare i cottimisti senza protestare, a lavorare gratuitamente, a fare più ore di quelle previste dal contratto in condizioni di rischio continuo. Perché queste industrie, per aumentare la velocità di produzione, fanno disattivare i sistemi di sicurezza dei macchinari. Allora, per noi era importante iniziare oggi parlando di questo e sosteniamo e appoggiamo gli studenti e i lavoratori che non abbassano la testa. You are a fucking star. stiamo comunque ascoltando questa band statunitense. Loro sono i Tragedy e questo è il loro album d'esordio, datato 2000, e dopo ne sono susseguiti altri fino all'ultimo, che è del 2012, ma non si sanno, cioè non ci sono più notizie di questa band, anche se i componenti fanno parte anche di tutte band parallele, sempre da questo stato che è l'Oregon e la cittadina è Portland. Comunque noi rimaniamo all'ascolto di questo omonimo album dei Tragedy, datato 2000. La vita per cui ci battiamo. Non è una cattiva poesia sulla primavera, non è la mappa dettagliata di nessun luogo, non è un programma per l'avvenire. È una malinconica melodia gitana che ci accompagna nella solitudine, nello sconforto, nei sogni sereni e in quelli sudati, nel fragore della tempesta, nel cuore di un'azione. La vita per cui ci battiamo non coincide mai con le singole lotte, non scodinzola davanti alla realtà, non ammira il successo, non idolatra il fatto, rimane incredula verso l'onnipotenza del visibile. Non si sente grande di una grandezza sempre latente, non fa profferte d'ignoto e intanto tira a campare nei retrobottega perché la situazione, come si dice, non è matura. La vita per cui ci battiamo è splendida, minacciata, malfamata e derisa, incastonata nel grembo profondo di ogni presente. Non è una meta radiosa, è piuttosto un avanzare di ritorno, come si chiama nel linguaggio dei marinai la perigliosa ricerca della rotta smarrita. La vita per cui ci battiamo non è una piuma al vento, ha una lunga storia, arcigna e bizzosa custode di un tesoro perduto e possibile, affiorata non si sa bene quando tra gli schiavi d'Egitto, arsa viva nel 1307 a Biella e straziata nel 1525 in Germania, riapparsa nel 1811 in Inghilterra e nel 1871 a Parigi, avvistata nel 1905 a Pietroburgo e abbattuta come una pernice nel 1921 a Kronstadt, accarezzata nel 1936 in Catalogna e riassaporata in Rue Gay-Lussac nel 1968, vestita di bianco nel 1979 a Teheran e di nero nel 2001 a Genova, si aggira oggi nella libera Repubblica della Collera, una terra incognita che si estende dalla Mauritania alla Siria. È raccolta in un punto focale a cui alludono da sempre le immagini utopiche, un punto irraggiungibile da coloro che hanno tempo. La vita per cui ci battiamo è un fanciullo che esaspera l'adulto, opponendo alla logica del così è l'ostinazione dei suoi perché. Gratta le nuvole e non trascura i dettagli, a quella semplicità che fa inorridire o sorridere. Il denaro non si mangia, è l'attività umana che ci nutre e riscalda. Lo Stato ci dà solo ciò che ci ha tolto, persino i denti con cui ci morde sono i nostri. Ogni specie animale, fosse anche la più pigra e maldestra, costruisce il proprio riparo in poche ore o giorni. Noi fatichiamo tutta la vita per pagarci una dimora, per di più insalubre e brutta. Invece di distribuirci a gusto e ad agio sulla terra, tra boschi, campagne e borghi, sopravviviamo ammassati in gabbie metropolitane, senza solitudine e senza incontri. Invece di produrre ciò di cui abbiamo bisogno, svolgiamo lavori inutili e nocivi in cambio di un salario. Mangiamo plastica invece di leccornie. Invece di assaporare la nostra breve vita, la perdiamo a guadagnarla. Invece di sapere cosa e perché abbiamo prodotto oggi, affastelliamo nocività per le prossime migliaia di anni. Invece di illuminare la natura, la bruciamo. Invece di riposare, ci sfiniamo a divertirci. Poi, quando si tratta di agire, dormiamo. Invece di decidere in comune le regole e gli accordi per vivere insieme, ci facciamo imporre delle leggi da un'esigua minoranza che ci tiene docili e separati con gendarmi che siamo noi a pagare. Invece di mettere in comune beni, piaceri e fatiche, socializziamo la paura e la concorrenza. Ci vorrebbero pronti ad ammazzare persone che non conosciamo per difendere padroni che tra di loro si conoscono benissimo e non si ammazzano. Sembrerebbe un sortilegio maligno, invece è un ordine sociale che riproduciamo noi stessi. Potremmo spegnere il fuoco di questa servitù volontaria, invece la alimentiamo di legna e maledizioni. Marchiamo con le stimmate del rancore e dell'infamia i nostri fratelli più sventurati, ma non troviamo parole né armi contro le stufanti, padroni e ruffiani. Ci sentiamo protetti dalle infinite protesi tecnologiche che ci circondano, ma controlliamo il nostro ambiente e la nostra vita infinitamente meno bene di un montanaro del 1300. Un guasto o un'alluvione e siamo come polli in batteria. I borghi medievali ci sembrano un bell'ambiente materiale in cui vivere, senza servi né padroni. Le attuali città rimarrebbero un incubo, anche se fossero liberate dal denaro e dalla polizia. La varietà della natura umana permetterebbe di spingere la passione dell'incontro e della separazione fino al più meraviglioso dei giochi o al più intricato dei conflitti. Per quanto bizzarra possa essere un'esigenza, una condotta, ci sarà qualcun altro pronto a condividerla. Incurante dei pensieri complessi, dei necessari compromessi e delle opinioni rispettabili perché stupide, la vita per cui ci battiamo parte da questa semplicità. Vogliamo rovesciare un mondo alla rovescia. Vogliamo rovesciare un mondo alla rovescia e sappiamo che non è possibile farlo alleandosi con chi aspira a comandare. La vita per cui ci battiamo non è una piuma al vento, senza storia né memoria. Ha visto all'opera i partiti, i sindacati, i comitati centrali, le burocrazie, i parlamentari, gli assessori, i consiglieri comunali, provinciali, regionali. Ha disertato i suffragi troppo a lungo per non conoscere le illusioni, gli intrighi, le compravendite di quella fiera che una lingua sinistra e menzognera chiama elezione, cioè scelta. Ha sbirciato i modi in cui gli insorti sapevano e sanno organizzare la vita sociale senza capi né deleghe. Ha visto troppi generosi battersi e morire per accettare ancora la farsa degli stati e del potere. Non ha santi da celebrare, ma vagabondi dello spirito con cui camminare, maestri senza cattedra da cui imparare. Pisacane, che tenta un'insurrezione fallita in partenza, finendo impiccato, quel manipolo di internazionalisti che nel Matese imbraccia le armi nonostante centinaia e centinaia di gendarmi siano già lanciate al loro inseguimento. Bruciano gli atti di proprietà. Distruggono i contatori del grano, perché i tempi sono maturi ovunque regni l'ingiustizia. I bresci e gli schirru, la tradizione degli oppressi in rivolta, Caffiero, che rinchiuso in manicomio, chiede all'infermiera di non aprire le imposte, perché non vuole approfittare a scapito altrui di quella luce del sole che crede limitata. Quei giovani partigiani che assaltano i camion di viveri scortati dalla SS e con il denaro raccolto in cambio del cibo, estinguono i debiti al banco dei pegni dei poveri che nemmeno conoscono. La chiamiamo bontà armata, i professori e i furbi sorridono. Bava Beccari, Auschwitz, Hiroshima, My Lai, Fallujah. Per fortuna e per scelta la rivoluzione anarchica tende alla libertà e non all'affermazione di una giustizia da contabili. Non ci sarebbe violenza sufficiente per ripagare quei torti, quei volti, quelle ombre. La vita per cui ci battiamo non sorgerà senza conflitti. Per espropriarla, la nostra vita, dobbiamo insorgere, tentando in tutte le occasioni propizie. Colpire forte e presto, diceva un giovane d'altri tempi, distruggere lo Stato, espropriare ciò che si può umanamente condividere e liquidare tutto il resto. Un'idea semplice di anarchia. Banche, caserme, prigioni, titoli di proprietà sono un insulto alla vita. In tanti luoghi del mondo, le cittadelle della sofferenza e dell'avidità cedono sotto i colpi di sconosciuti che sentiamo più vicini di tanti conoscenti che incontriamo tutti i giorni. Non siamo una piuma al vento, c'è un punto di non ritorno in cui incontreremo tutti i nostri fratelli. Ed è lì che vogliamo andare. Bene, sfumiamo questi tragedi che abbiamo ascoltato in sottofondo, ma anche prima dell'intervento abbiamo ascoltato ben due brani in precedenza che, come ho detto, tragedy band statunitense dello stato di Oregon, esattamente da Portland. Questo era il loro disco omonimo uscito nel 2000, album di esordio. Mentre ora andiamo all'ascolto di questa band di Imperia, quindi band ligure, loro sono i CGB, Crime Gang Band, e questo era il loro album, se non erro, del 2007, che si chiama L'1%. Ma cosa vuole caricare? Andate via, se no vi caccio! Andate via! Ma le forze dell'ordine stanno sconverando la zona. Andate via! Fuori! Questo viene! Sì, e per questa serata abbiamo pensato anche di leggere alcuni contributi antimilitaristi. Iniziamo da un articolo che è apparso sul periodico anarchico Semianarchico del giugno 2021, un articolo di Daniele Ratti che parla del recovery fund e spese militari. La pandemia non ha fermato, anzi ha accentuato la tendenza al rialzo delle spese militari già consolidatesi da qualche anno tra molti alleati della NATO. È il caso dell'Italia, che ha visto la spesa per le tre forze armate, funzione difesa, crescere nel 2020 fino a 15,32 miliardi di euro contro i 13,98 del 2019, con un incremento di 1,3 miliardi, che significa in termini percentuali un 9,6%. Nel 2021 tale stanziamento dovrebbe salire a circa 17 miliardi, con almeno 7 miliardi, 4 del bilancio e 3 dai fondi del Ministero dello Sviluppo Economico, destinati ad acquisire nuovi mezzi, armi ed equipaggiamenti. E la crisi di alcuni settori economici che di fatto hanno visto azzerare nell'epoca del Covid i ricavi, in particolare nel trasporto aereo e marittimo. L'epidemia ha determinato il successo delle politiche economiche espansive, basate sull'aumento del debito e sulla spesa in deficit. L'Europa per la prima volta assume la responsabilità di un debito comune ed ha messo a disposizione degli stati aderenti 750 miliardi di euro. Bisogna chiarire però un aspetto di fondo, spesso trascurato. I fondi europei non sono regalie o prestiti per tamponare le emergenze sociali. Ci riferiamo in particolare alla sanità ed all'istruzione. Si tratta di debiti che devono essere ripagati. Ora, l'unica via per rientrare dal debito è quella di produrre profitti, ovvero assicurare la famosa crescita. Il Recovery Fund ha quindi lo scopo di indirizzare la liquidità a quelle attività industriali che siano in grado immediatamente di essere competitive nel mercato globale e generare i ricavi. Due sono i settori che hanno tali caratteristiche: quello dell'industria digitale, industria 4.0, e l'apparato militare industriale. Ricordiamo che da anni lo sviluppo tecnologico dell'apparato militare industriale è indirizzato al dual use, ovvero all'utilizzo indifferenziato del prodotto militare in ambito civile. Il Recovery Fund è lo strumento di riconversione industriale per competere sul mercato globale, e la competizione si gioca e si giocherà nel futuro nel campo della digitalizzazione, ovvero nei campi dell'aerospazio, cyber, intelligenza artificiale e in generale dell'alta tecnologia, dove non a caso è attivo ed in piena fase espansiva l'apparato industriale militare. I ministeri della difesa e dello sviluppo economico hanno presentato un elenco di progetti di carattere militare, un insieme di 21 progetti per l'ammontare di circa 30 miliardi di euro. I progetti del Ministero della Difesa prevedono di spendere 5 miliardi di euro del Recovery Fund per applicazioni militari nei settori della cibernetica, delle comunicazioni, dello spazio e dell'intelligenza artificiale. Rilevanti i progetti relativi all'uso militare del 5G, in particolare nello spazio, con una costellazione di 36 satelliti. Per avere un quadro completo delle spese militari, oltre ai fondi del Recovery Fund, bisogna sommare 35 miliardi stanziati a fini militari dai governi italiani per il periodo 2017-2034, in gran parte nel bilancio del Ministero dello Sviluppo Economico. Essi si aggiungono al bilancio del Ministero della Difesa, portando la spesa militare italiana a oltre 26 miliardi annui, equivalenti a una media di oltre 70 milioni di euro al giorno, in denaro pubblico sottratto alle spese sociali. Cifra che l'Italia si è impegnata nella NATO ad aumentare a una media di circa 100 milioni di euro al giorno, come richiedono gli Stati Uniti. Tra le industrie belliche che premono sul governo perché aumenti la fetta militare del Recovery Fund c'è la Leonardo, di cui il Ministero dello Sviluppo Economico possiede il 30% dell'azionariato. Stando ad una relazione pubblicata dal Consiglio per l'innovazione del Ministero della Difesa degli Stati Uniti, che il vero potenziale del 5G sarà il suo impatto sulla rete di guerra del futuro. Questa rete includerà sempre di più un ampio numero di sistemi meno costosi, più connessi e più resilienti, in grado di operare in uno scenario di battaglia in rapida evoluzione. Le tecnologie wireless di prossima generazione costituiscono anzitutto una rivoluzione nelle operazioni militari che cambierà tutto, dall'addestramento alla logistica, alle dimensioni tattiche, operative e strategiche della guerra. In Europa si prevede che satelliti ibridi e architettura di rete 5G modelleranno il futuro della comunicazione mediante droni. Attualmente sembrerebbe che i ricercatori finanziati dall'UE pensino ad un'architettura ibrida nata dalla combinazione tra reti cellulari e satellitari per consentire il volo veloce e sicuro di droni commerciali nelle aree urbane. La stessa industria della difesa e sicurezza più importante italiana, Leonardo S.p.A., nella relazione finanziaria annuale del 31 dicembre, inserisce il 5G nell'ambito dell'elettronica per la difesa e la sicurezza, programmi di finanziamento su ricerca e innovazione in ambito spazio e cyber, insieme ad Eni, in quanto azienda di interesse strategico nazionale, fornisce informazioni sui propri sistemi di sicurezza cibernetica e valutazioni relative alle prospettive connesse con l'avvento della rete 5G. Il digitale è la nuova frontiera industriale, ancora una volta il settore militare per le sue caratteristiche dual use, cioè civile e militare, ad alto contenuto tecnologico che fa da traino all'intero progetto di ristrutturazione. Ne consegue che da parte nostra dobbiamo sempre più considerare il mondo militare nel suo complesso come il centro dell'economia, una posizione sempre più strategica che esclude quelle vecchie ormai superate dalla storia, parole d'ordine. Riconvertiamo l'industria militare, più burro e meno cannoni, appartengono ormai al passato. Dobbiamo rimodulare il nostro antimilitarismo, tenendo presente la centralità assoluta nel sistema capitalista dell'apparato industriale militare. Stiamo ascoltando in sottofondo e comunque cioè, si riusciva anche ad ascoltare e a percepire in parte alcuni brani durante l'intervento di questa band francese. Loro sono i Geranium e questo è uno split 12 pollici uscito ad una band belga che sono i Link, e comunque è un album è uscito nel 2017, loro sono i Geranium, però anche mi sa che stanno per finire, ed eventualmente dopo ritorniamo all'ascolto di un brano dei CGV. Sì, e dopo il contributo antimilitarista di Daniele Ratti, che era stato pubblicato su Seme Anarchico nel giugno 2021, vi propongo un altro contributo che si intitola Rompere le righe, dal quindicinale anarchico internazionalista Bez Motivni. Allora, vediamo che cosa dice Mario Monti, che è l'attuale capo della Commissione Paneuropea per la Salute e lo Sviluppo Sostenibile. Ci dice: nella comunicazione di guerra c'è un dosaggio delle informazioni che nel caso delle guerre tradizionali è odioso, ma nel caso della pandemia bisogna trovare delle modalità meno democratiche secondo per secondo. E ancora continua: da 2 anni, con lo scoppio della pandemia, di colpo abbiamo visto che il modo in cui è organizzato il nostro mondo è desueto, non serve più. 2 cose sono state toccate: la comunicazione e la governance del mondo. Nella comunicazione, da subito, abbiamo iniziato a usare il termine guerra, perché è una guerra, ma non abbiamo minimamente usato in nessun paese una politica di comunicazione adatta alla guerra. Io credo, dice Mario Monti, che bisognerà, andando avanti in questa pandemia o comunque per futuri disastri globali della salute, trovare un sistema che concili certamente la libertà di espressione, ma che dosi dall'alto l'informazione. Questo controllo delle dosi dell'informazione dall'alto spetterebbe al governo, ispirato, nutrito, istruito dalle autorità sanitarie. Salta all'occhio che sia proprio il tecnico ed ex premier Mario Monti, ex commissario europeo, a permettersi affermazioni che avrebbero probabilmente creato problemi all'esponente di un qualsiasi partito. Il tecnico e premier Mario Draghi, ex capo della Banca Centrale Europea, ha potuto permettersi altrettante mosse ardite, con il plauso del paese. 2 uomini chiamati a formare, in tempi di crisi, governi di unità nazionale, tecnici che non devono rispondere a nessuno. Esponenti in forma pura delle esigenze di una parte del capitale. Il potere che viene dato ai tecnici e alla tecnica, che oggi vengono visti come oggettivi agenti del miglioramento, è ancora più evidente quando Monti afferma che il controllo dell'informazione deve essere demandato al governo, ispirato, nutrito, istruito dalle autorità sanitarie. Probabilmente, essendo da sempre l'informazione una delle droghe con cui si addormenta la coscienza rivoluzionaria, è giusto che tocchi alle autorità sanitarie il dosaggio del metadone da somministrare a un corpo sociale per evitare la disintossicazione completa o la crisi di astinenza. Dopo tanti anni di distruzione dei rapporti sociali aggregativi, dopo aver monopolizzato e digitalizzato, creando un sacco di confusione, le informazioni, dopo aver reso abitudine incontrare i militari nelle piazze e nelle stazioni, dopo aver cercato di tagliare ogni alzata di testa da parte di movimenti sociali e sovversivi, non c'è nulla di strano nel fatto che pian pianino la democrazia mostri il suo vero volto. Negli ultimi anni abbiamo assistito all'infantilizzazione degli abitanti, sia con i processi di sviluppo tecnologico, sia con una scolarizzazione atta a creare individui semi-analfabeti e in grado solo di risolvere semplici problemi tecnici. La scelta di rendere la detenzione della conoscenza sempre più elitaria, pensiamo all'accesso alle biblioteche e alle università, eccetera, si aggiunge a questo processo. La scelta di una comunicazione di guerra è di fatto già in atto. Basta guardare gli innumerevoli articoli sui Novax pentiti, in cui si presentano persone contrarie al siero anti-Covid con dinamiche da inquisizione, dove l'eretico può fare auto da fè e morire, o morire nel biasimo della congregazione cattolica. La necessità di sviluppare una comunicazione di guerra, così come il continuo parlare di guerra al virus, è un passo per il futuro. Mentre ai confini tra Bielorussia e Ucraina, l'Occidente e la Russia di Putin alzano il tono dei rapporti diplomatici fino a trattare migliaia di esseri umani in migrazione come merce di scambio, mentre si allargano le basi NATO in Italia, aumentano le tensioni internazionali tra l'Australia e la Cina per il Mar Cinese meridionale. Mentre la crisi climatica e migratoria, strettamente connesse con quella energetica, peggiorano ogni giorno, è sempre più palese che gli stati si stiano preparando a una guerra ben peggiore di quella al virus. Di fronte alla guerra, le risposte da dare sono due. Da un lato, la diserzione, non entrare nei ranghi, disertare l'esercito, rompere le righe, demolire questa società e muoversi contro la volontà di tornare al mondo di prima, contro la guerra tra gli stati, guerra ai padroni. Ho gestito l'ingestibile, restando in piedi. Ti stringo forte, cammino un po' su una strada diversa, la mia strada diversa. Tieniti stretta e affonda le tue unghie e resta senza fiato, resta senza fiato. Brillano occhi tra le mie sine braccia, ieri è passato e no. Brillano occhi tra le mie sine braccia, ieri è passato e no. Si torna indietro mai, indietro mai, indietro mai. Si torna indietro mai, indietro mai, indietro mai. Questi che abbiamo ascoltato sono i CGB, band di Imperia, CGB, band storica nata negli anni 80, comunque questo è il loro album L'1%, che è uscito nel 2007, e CGB è comunque l'acronimo di Crime Gang Bang. E ora invece andiamo all'ascolto di questa band inglese, altra band storica nata nei primi anni 80 e pare tuttora, anche se in forma rimaneggiata, diciamo che i componenti sono proprio pochissimi, gli originali, e loro sono i Varukers. We'll be right back. E mentre parte un altro brano di questa band inglese, i Varukers, che per l'esattezza si sarebbero formati nel 1979 addirittura, come ho detto prima dovrebbe essere una band tuttora esistente, rimaneggiata un po' da quella che era la formazione originale, comunque sembra il cantante sempre lo stesso, e questo era un album che è uscito nel 1985, che si chiama One Struggle, One Fight, e che comunque era uscita per la etichetta Liberate Records, che comunque era Liberate intesa per la liberazione animale. Comunque loro sono, come ho detto, i Varukers. Sì, prima di passare ad altro, volevo ricordarvi che anche l'ultimo numero del quindicinale Beth Motivni, che è poi il primo numero del secondo anno di pubblicazioni, è dedicato quasi interamente all'antimilitarismo, proprio titola Contro la guerra, e al suo interno c'è una analisi approfondita della Leonardo. Se avremo modo magari di leggere delle parti, insomma, ma siccome sono articoli molto lunghi, se non sono molto radiofonici più che altro, e comunque se vi interessano insomma questi scritti, potete richiedere la rivista Bezmotivni o a noi dell'Assemblea Permanente contro il Carcere e la Repressione, alla mail liberetutti@autistiche.org, oppure direttamente ai redattori scrivendo una mail a senzamotivo@riseup.net. Ecco, e adesso vi presento brevemente il prossimo intervento. Si tratta della registrazione di un contributo, si intitola cov.it, è una testimonianza creativa e sovversiva su salute, malattia, renitenza alla leva vaccinale. Ho attraversato l'esperienza del Covid. A voler credere alla narrazione unica dominante, io dovrei essere in intensiva, se non già in una bara, in quanto paziente oncologica, non vaccinata ed esentata dal siero, eppure ultracinquantenne. E invece sono qui, più vispa che mai, con le energie decuplicate. Il mio è stato, mi viene da dire, un fast Covid. Un solo giorno di febbre a 38 che ho accolto come sana reazione del mio sistema immunitario all'attacco del virus. Niente medicinali allopatici, ma solo rimedi naturali e vitamine. Alcuni già li prendevo per prevenzione, altri me li ha indicati ad hoc il mio antroposofo storico. E che non mi si dica anche questa volta che il mio è stato un miracolo, come mi sono già sentita dire rispetto al cancro, perché stavolta mi arrabbio davvero. Non si chiama miracolo, ma autodeterminazione. Proviamo allora a ragionare sui dati di fatto. Mangio bene e sano. Non mi imbottisco di medicine allopatiche, ma, soprattutto, non sono caduta nel trappolone della paura che cercano di incuterci da 2 anni in qua, e che ha abbassato le difese immunitarie di molta gente. Ho anche toccato con mano il fatto che nessuno, né il medico di base, né la ASL che ti manda mail di default dopo l'esito positivo del tampone, mostra alcun interesse rispetto alla nostra salute. Né medico né ASL mi hanno mai chiamata per sapere come stessi, se e come mi stessi curando, eccetera. Va benissimo così per una come me, che sa autogestirsi, anzi meglio. Ma ho pensato tanto alle persone sole, magari senza strumenti culturali, magari anziane o fiduciose in una medicina che si è sviluppata studiando i corpi morti e non quelli viventi, e che ha mandato su rogo le streghe per liberarsi di pericolose concorrenti. Ci trattassero di dati sui contagi e sui morti, di Covid ovviamente, le altre morti non contano nulla. Rispolverano il dizionario patriarcale del peggior colonizzatore per dare del selvaggio, da civilizzare, e credulone, da ricondurre alla giusta e unica fede, a chi assume vitamine e medicine naturali e rifiuta il loro magico siero della felicità, e nel frattempo continuano a far crepare di vigile attesa e di abbandono totale. Tanto poi la colpa la riversano sulla categoria lombrosiana dei Novax, creata per rinforzare la loro narrazione, dissimulare le loro gravi responsabilità e propinare ad oltranza inutili, ormai lo ammettono anche loro, la nave sta affondando, inutili sieri transgenici. Esibiscono come trofei i morti non vaccinati e i no-vax pentiti, mentre occultano i dati sui morti di vaccino o di mala sanità. Se, quindi, prima di prendere il Covid ero profondamente scettica e diffidente rispetto alla narrazione unica di politici e virologi superstar, oggi mi sento di dire apertamente che quella narrazione è davvero frutto di una logica criminale. Ma siccome non intendo farmi avvelenare da questa gentaglia e dal loro infame sistema di premi e punizioni, voglio riportare altri aspetti positivi della mia esperienza. Prima di tutto l'importanza del continuo contatto con compagne e compagni per scambiarci consigli sui protocolli naturali che ciascuno e ciascuna aveva adottato e su come riuscire a non spendere troppo per procurarsi quei medicamenti, scambiarci anche consigli sull'alimentazione e al contempo stare vicino a chi si stava facendo il Covid in solitudine e tenerla monitorata. Una capacità di autogestione collettiva e di solidarietà, quella vera, non quella che ora dall'alto millantano per cancellare ogni possibilità di scelta individuale, una solidarietà che mi ha scaldato il cuore. Sembrava di essere tornata negli anni 70. Insomma, devo dirlo fuori dai denti, per me il Covid è stata una bella esperienza. La febbre mi ha anche aiutata ad espellere le tossine accumulate con la rabbia di questi 2 anni di pandelirio. Non per caso alla febbre è seguito un orzaiolo che se n'è andato dopo 3 giorni, liberandomi anche da tutte le schifezze che i miei occhi hanno dovuto vedere e leggere per mesi. Sia chiaro, se per me è stata una passeggiata, sono anche consapevole che c'è chi sta male, a volte anche tanto male, ma occorre chiedersi perché questo succeda, se ne vogliamo davvero uscire. Per questo, lo ripeto, non mi si dica di nuovo che il mio è un miracolo. Ho dovuto lottare duramente perché mi fosse riconosciuta l'esenzione dal vaccino da parte di medici sconosciuti che, negli hub vaccinali, pretendevano di farmi l'anamnesi per stabilire se io potessi o meno essere vaccinata, malgrado presentassi un esplicito certificato da parte di chi da anni mi accompagna nel percorso di guarigione. Ho dovuto lottare perché nessuno provasse anche solo lontanamente a toccare il mio sistema immunitario. Ho dovuto lottare per difendere la mia salute dagli interessi economici del capitale. Ho dovuto lottare perché uno stato implicato fino al midollo, con tanti altri, nella ricerca bellica sulle armi biologiche, non mi facesse cavia tra le altre cavie. Ho dovuto lottare e mi sono avvelenata di rabbia, ma non sono retrocessa di un passo. Ah, ma che dire dei soggetti fragili? Li dobbiamo lasciar morire? Chiederà qualche anima bella. Proprio ieri raccontavo per email la mia esperienza di Covid ad alcuni medici antroposofici e stamattina uno di loro mi ha risposto segnalandomi un articolo sull'esperienza del Covid di un gruppo di pazienti oncologici che seguono la mia stessa terapia col vischio. È lampante che non si tratta di miracolo. L'unico miracolo sarebbe se finalmente queste terapie non convenzionali diventassero alla portata di tutti, venendo riconosciute da un sistema sanitario più attento agli interessi delle multinazionali farmaceutiche che non a quelli delle pazienti e dei pazienti. Peraltro i costi di tale terapia sono pure molto più contenuti di quelle allopatiche. Ma qui abbiamo avuto la signora Lorenzin e ora abbiamo il signor Speranza. C'è poco da sperare. Non resta che continuare a lottare e ad autodeterminarci se vogliamo davvero vivere e non limitarci a sopravvivere per miracolo. Soprattutto con la consapevolezza che la prossima emergenza, già pronta e confezionata, sarà l'emergenza ambientale che il capitale ha generato depredando e devastando per secoli il pianeta, ma che farà pagare a chi questo pianeta lo abita con rispetto ed empatia. Sì, scusate, prima della mandata in onda della registrazione non ho detto di chi è la testimonianza. La testimonianza che è stata appena letta è di Nicoletta Poidimani e la potete trovare nel suo sito, con qualsiasi motore di ricerca, digitando Nicoletta Poidimani trovate appunto il suo sito, che è ricco tra l'altro di tantissimi contributi su questo argomento e non solo. Bene, e abbiamo ascoltato in sottofondo questi brani, anzi che torneremo perché ne ascolteremo ancora uno, e questa è una band di Milano, loro sono i Kalashnikov Collective, questo era un loro album uscito nel 2014, album comunque molto interessante che si chiamava, cioè si chiama ancora, esiste, L'algebra morente del cielo. E ora mancano anche pochi minuti per il termine di questa trasmissione, che ripeto è Zardins Magnetics, che va in onda ogni giovedì in diretta radiofonica qui dai studi di Radio Onde Furlane da Udine, e trasmettiamo sui 90 MHz e, come ho detto, dalle ore 20 alle ore 21:30. Ma prima, appunto, di tornare all'ascolto dell'ultimo brano, volevo ricordare i contatti nostri, se volete scriverci e se volete farlo in forma cartacea in vecchio stile, inviando qualsiasi cosa che desiderate. Il contatto è Associazione Senza Sbarre, Casella Postale 129, Trieste Centro 34121, ripeto, Associazione Senza Sbarre, Casella Postale 129, Trieste Centro, codice di avviamento postale 34121. Inoltre, se invece volete scriverci via mail, potete farlo a questo indirizzo di posta elettronica, che è liberetutti@autistiche.org. ripeto, liberetutti@autistiche.org. e inoltre, chiunque volesse ascoltare la puntata odierna o anche quelle degli scorsi giovedì, potete andare in questo blog, che trovate ovviamente in rete, che è zardinsmagneticsradio.noblogs.org, zardinsmagneticsradio.noblogs.org. l'ho detto due volte, così non ve lo ripeto una terza, che invece lo farò lo stesso, dato che l'ho annunciato una terza volta: zardinsmagneticsradio.noblogs.org. bene, quindi l'appuntamento è per il prossimo giovedì, sempre qui in diretta radiofonica di Radio Onde Furlane sui 90 MHz dalle ore 20 alle 21:30. Quindi vi lascio con questo ultimo brano, che sono i Kalashnikov Collective, band milanese, e questi sono tutti brani estratti dal loro album L'Algebra Morente del Cielo, uscito nella primavera del 2014. Ciao a tutti, al prossimo giovedì.